porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano. Uncino, un passo avanti ondeggiando, un altro indietro bailando, muovi a tempo il bacino, sono il capitano. Uncino, porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano. Su una barca di pirati in festa, io con la bandana in testa ti do la caccia, la folla balla e dentro la piscina c'è chi prova a stare a galla come una palla. Ti giro intorno seguendo il tuo bacino, bello come il mondo rotondo, io mi ci tuffo, mi ci impossesso perché sono il capitano. Se il capitano, se se come un corsaro, un abile bandito, capitano Uncino, ti ho fatto mia. Dalle tue labbra prendo ma non mi arrendo e cerco di portarti via a mare aperto dentro il mio mondo, dove sovrano avrò il tuo tesoro perché sono il capitano. E con la mano in alto ti do il mio tempo, segui il ritmo del capitano, segui il ritmo del capitano. Seguimi, porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano. Che col cervello chiuso, ottuso, sepolto in mezzo all'isola che non c'è, faceva blusa tutte le sbarbine proprio come te. Ma adesso ascolta, chiudi quelle ali, vieni via con me come travolta, balleremo insieme i dischi di una volta. E poi in coperta, se non ti basta, mi sfilerai l'uncino e col bacino un movimento fino al mattino e poi al giardino faremo casino con tutto il resto della ciurma che ascolta, salta, rimbalza e con in alto la mano segue il capitano, porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano. Uncino, un passo avanti ondeggiando, un altro indietro bailando, muovi a tempo il bacino, sono il capitano. Uncino, porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano. Uncino, un passo avanti ondeggiando, un altro indietro bailando, muovi a tempo il bacino, si cavalca l'onda, arrivo della musica che non affonda, come un corsaro, un bandito o capitano Uncino, ti ho fatto mia. E dopo aver legato Peter Pan con in alto la mano, segui il tuo capitano, ti ho fatto mia. E dopo aver legato Peter Pan con in alto la mano, segui il tuo capitano, sì. Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano Uncino. Gino.